andai a casa sua e si teneva Luciano Romagnoli la sua storia. Era il 65 ed era Roma e io ancora ne porto memoria. Lui era bello per come viveva quella sua vita che già lo moriva, ed era bello per come moriva la vita cara che in lui resisteva. In quella casa grande e luminosa, la voce sua fonda e armoniosa, no, non sapeva no di malattia, e io capivo che non la fuggiva, e io capivo che la rispettava. Io so che da Luciano ho imparato che il male vuole sempre rispettato, che il male vuole sempre conosciuto per essere davvero combattuto, sia esso il grande male del fascismo, sia esso il grande male del sopruso, sia esso il male dentro il suo dolore. Luciano rispettava il suo tumore e dal rispetto lui traeva vita. Nel 1924, il 9 marzo, nasce a Campotto, nei pressi dell'Argenta Ferrarese. A 18 anni tutto lui si spese, siccome comunista e partigiano. E poi sindacalista fu Luciano, del contadino, del lavoratore, che dalla terra propria vita stenta, mondine, nonna e madre in quel d'Argenta. Poi segretario della CGIL fu comunista sempre e dirigente, attento alla cultura della classe, che per solito si dice meno abbiente. E io non potevo che ascoltare quel suo dire piano e ragionato, eppure pieno di amore profondo per il partito e per il sindacato, siccome il giusto duomo è di suo mondo, infine dal sopruso riscattato. Ti dedicai allora una canzone che volli viva di tua propria vita. Di 40 anni è l'ultima tua sorte, Luciano Romagnoli, e piano piano alla memoria in canto apro le porte. Ciao Luciano. Ho saputo dagli occhi la tua voglia di vita, ma nell'ombra del viso è una traccia di morte. Si confondono i tempi dal presente al passato. Sei stato, tu per me sei il compagno di tutte le lotte, io compiango il dolore che ti nega il futuro, se nell'ombra del viso è una traccia di morte. Sorriso, la tua voglia di vita. C'è una traccia di morte, il ricordo è un sorriso, la tua voglia di vita.